tutti, questa è Radio Pompa che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra. Guardate la radio, guardatela! Oggi naturalmente trasmetteremo anche le parade internazionali delle riserve indiane. Primo della tribù dei Navoatere Reros, Antonio Esposito. Allora, salute a tutti, siamo di nuovo io Cristina, io Tiziana e di nuovo qui con Radio Pompa. Al secondo posto, cavallo pezzato che va piano e va lontano, con saggiami per piacere le unghie e sputale per terra, una famosa macumba che qui viene suonata da tutte le tribù. Al terzo posto, il più fantomatico dei capi andiani Sioux, tale Pierdine Scorzivelluto, con la canzone favolosa dal ritmo. Allora, anche oggi siamo qui con le nostre chiacchiere, infatti non ci smettiamo, avete sentito Radio Pompa. L'ultima volta abbiamo parlato di agricoltura, abbiamo deciso di andare in ordine alfabetico perché abbiamo tantissime cose da dire. La B la saltiamo, vero Tiziana? Sì, B come proprio bow. E invece parliamo di cucina, però non aspettatevi delle ricette, assolutamente no. E torniamo alla nostra radio, da alcuni short pubblicitari, alla Fifth Avenue, all'angolo con Forcella Street, vendiamo quattro... I can't stop loving you. Well, I made up my mind to live in memory. Ora, il pezzo che stiamo sentendo è I Can't Stop Loving You da Elvis Presley. Il long playing promette molto, dice Aloha from away, via satellite, però questa canzone è stata rifatta molto meglio da Ray Charles. Noi abbiamo soltanto la versione di Elvis Presley. Dreams of yesterday, those happy hours. They say the time it heals a broken heart. Yeah, the time has to stay. We've been apart. Well, I made up my mind to live in memory of such a long, lonely time. Allora, come avevamo annunciato, parliamo di cucina, però diciamo non è che abbiamo intenzione di darvi delle ricette, anche perché io non mi sento molto ferrata. Tu, Tiziana? Nemmeno io. Sì, infatti abbiamo un po' anche l'allergia alle ricette, già sono in troppi a darne, quindi non è il caso che se ne aggiungano altre due. Sì, noi volevamo parlare della cucina appunto come riscoperta qui degli ultimi anni, la cucina intesa in senso sociologico, ecco, tanto per dare un'idea che non ne vogliamo parlare, sì, in maniera frivola e scontata. Sì, come fatto di costume, più che altro di costume. Infatti, così avevamo notato che ultimamente sia la televisione che i libri che i giornali se ne occupavano molto di più, però appunto in una veste diversa. Adesso alla TV, per esempio, c'è sulla Rete 2 un programma, si chiama Menù di Stagione. Io non l'ho mai visto, ma mi hanno assicurato che c'è. A Monte Carlo addirittura c'è Telemenù, il nome è tutto un programma. Sono stati stampati, ristampati vecchi libri, quale 3000 anni a tavola, fisiologia del gusto, gli autori non sto a dirveli perché a parte che sono francesi, comunque il problema non è quello, più che altro perché così tanto per accennare. Poi abbiamo addirittura delle novità come alimentazione, folklore e società. Forse questo qua sarebbe il testo che farebbe più al caso nostro. Al caso nostro, proprio perché vogliamo legarla più che altro con come si considerarla proprio fatto di costume, come abbiamo detto, come sì, una cosa del momento. Partiamo con Celentano e la vecchissima Sei rimasta sola. Oggi abbiamo intenzione di fare una specie di revival, infatti vi abbiamo fatto sentire Prisley, adesso ci sentiamo Celentano e poi sentiremo anche Polanca. Sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso. Altro sintomo di questa così di questo revival della cucina è una rivista, io non l'ho mai vista, comunque mi dicono che sia in versione Vogue, cioè molto di lusso, addirittura è diretta da Ugo Tognazzi, che sappiamo è un famosissimo, più che altro più che gastronomo, però lo penserei un gran mangione. Sì, in questa rivista c'è una rubrica particolare diciamo così curata da Petri, il regista, e fa una specie di critica cinematografica a tutto quello che lega il film con i menu che vengono presentati nel film, eccetera. Infatti ce n'è uno recente, quello di La Terrazza, no? Sì, infatti. Dove mangiano tutti insieme gli amici. Sì, sono 4-5 scene, scene su appunto questa sì. Terrazza, dove fa appunto parte anche Ugo Tognazzi. Sì, sì. Scusa Tiziana, se noi gli argomenti li imbrocchiamo sempre, siamo sempre d'attualità. Sì, infatti anche, non so se vi ricordate la nostra trasmissione sull'alcolismo, la TV questa volta, invece di precederci, abbiamo posticipato. Ecco, esatto, grazie per la parola. Dicevo appunto, la tendenza attuale sarebbe però non il ritorno alla cucina ruspante, come dice la pubblicità, la cucina di un tempo, tutto quanto, ma diciamo così, l'avanguardia è il ritorno alla cucina futurista, perché evidentemente già nel 30, ai tempi del surrealismo così, i futuristi avevano introdotto questa specie di cucina moderna, cioè moderna per quei tempi, stranissima, addirittura con il gelato nella luna, brodo di rose, sole alle rotelle tempiste di carciofo, non saprei assolutamente spiegare sì, che sono, cosa. Sono cose addirittura sì. Extraterrestri. Beh, direi di far partire il pezzo di Polanka, che è It's Time to Cry, è tempo per piangere. When you know you're lonely, you're not the one and only who will cry. When your heart is broken, that's the time to cry. When you know she's left you, you know that she has left you, so you can cry. Happiness is what I long for, loneliness is why I cry. Left you, so you can cry. Allora, dicevo appunto, la tendenza, diciamo così, degli intellettuali che precorrono sempre i tempi, questa frase direi di prenderla tra virgolette, è appunto quella di rifarsi alla cena, alle scene di tipo futurista, oppure addirittura alla cucina della borghesia, dell'alta borghesia dell'Ottocento. Invece, diciamo così, la tendenza comune delle persone forse normali, che, oppure che non si considerano intellettuali, è quella della ricerca della cucina genuina, la cucina di una volta, e del piacere della tavola soprattutto come momento di ritrovo tra amici. Infatti, così noi vorremmo parlare della correlazione che esiste tra cucina e folklore. Cioè, credo che oggi si possa parlare della riscoperta della cucina anche appunto in questi termini, dove la cucina viene intesa anche come momento di sicurezza, cioè non la cucina naturalmente, come ritrovarsi a tavola come anche un momento di sicurezza, dove i valori, quelli classici tipo la famiglia, l'amicizia, così sono, si ritrovano nel momento ideale. Quindi dove appunto il nucleo familiare si cimenta di più, e dove c'è la famiglia per antonomasia, ecco. Sì, ritrovo più che altro del valore della famiglia. Del valore della famiglia che, se vogliamo, è anche un po' in crisi, insomma, inteso in senso sociologico. Sì, famiglia come comunione, sì, è in crisi. Esatto. Allora, cioè il folklore e il mondo contadino a cui si rifà la cucina come momento di sicurezza è appunto questo ritrovarsi. Sì, ritrovarsi insieme, magari in campagna. Dicevi, sì, il fatto del pranzo della domenica, che è diverso dal pranzo degli altri giorni. Sì, soprattutto infatti. Se pensiamo a una vita in città in cui addirittura il pasto di mezzogiorno non c'è, sì. Perché la madre mangia la mensa, il padre anche, il figlio a scuola a tempo pieno e tutte queste cose qua. Quindi il momento della tavola, va bene, questo qui è, diciamo così, una cosa di sempre, è un momento di ritrovo, però maggiormente adesso e soprattutto nelle città. Sì, infatti, dove nella città ci vive un'alienazione notevole, dove non c'è più un momento di ritrovo. C'è la riscoperta della cucina appunto come momento per uscire da questa alienazione, per ritrovare dei valori più genuini, sicuri, più come genuini, la cucina. Adesso sta andando sotto I Remember You, semplicemente, di Elvis Presley. I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember you. I'll remember too your voice as soft as a warm summer breeze, your sweet laughter mornings after, ever after, I'll remember you. To your arms someday, I'll return to stay. A proposito di questo valore genuino, io l'ho detto in senso un po' ironico, perché su questo Tiziana ed io non siamo d'accordo, cioè io lo considero un riflusso, così come si dice adesso, inteso di modo in dire, senso negativo. In senso negativo, un ritorno al passato, proprio inteso in senso negativo, mentre, cioè, se vogliamo, certi un aspetto positivo può avercelo, cioè questo qua del come dicevi tu, no, del riscoprire la famiglia come comunione, forse è un discorso diverso fatto in un paese come il nostro, con origine agricola, vita agricola e tutto quanto, questo l'abbiamo già detto, dove più o meno i rapporti tra le persone sono rimasti gli stessi, mentre dicevamo prima è diverso il pasto della domenica in una città, è diverso perché appunto la famiglia si ritrova. Però, come ti ho detto, io lo considero negativo proprio perché ricordo la pubblicità. Sì, infatti, c'è la televisione che fa appunto un po' da, così, da ripetitore negativo appunto di questo fenomeno. La televisione propaganda appunto i prodotti industriali con delle immagini tradizionali legate al tipo di vita contadino, se sì, vuoi. Ma soprattutto perché dice questi che facciamo noi sono buoni perché sono come quelli di una volta. Sì, sono... infatti tu lo intendi anche in senso negativo per quello. Sì. Ma comunque sì, io legavo invece, cioè se anche si tratta di riflusso, io non lo vedo in termini negativi come lo vedi tu, perché se vuoi è un momento, come dicevo prima, disalienante, cioè l'uomo che ritorna a casa, e anche la donna adesso perché ha una propria occupazione anche lei, cioè nella famiglia, nello stare a tavola insieme, e anche nella ricerca dei buoni cibi della tavola, possono forse ritrovare un momento di liberazione, un momento di comunione. E quindi... se vuoi è abbastanza sciocco detto in questa maniera, può essere anche una cavolata, però io credo che certi aspetti esteriori abbiano ancora una certa validità, insomma, sulla nostra mentalità, soprattutto provinciale. Tiziana, cosa ne dici del fatto che noi oggi abbiamo mandato tutti dei pezzi vecchi degli anni 60? Siamo in vena di riflusso. Siamo in vena di riflusso anche noi, Elvis Presley, Polanco e Celentano. E infatti il pezzo che sta andando adesso è il tangaccio, famosissimo. La mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va, se balla il cia cia cia. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, ermosa e perché no un po' formosa. Ma dove va? Perché non resta qua? Non scappi e poi vedrà. Ritornerò a cia cia cia. La mora se ne va, la rossa se ne va, la bionda se ne va. Non ballo il cia cia cia. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. Se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. Dunque, volevamo anche così ricordare così il momento della cucina anche come hobby. Cioè la cucina, se uno vuole, può diventare anche una dimostrazione di perizia manuale. Cioè cucinare, secondo me, non è più un momento appartenente esclusivamente alla donna, quel momento ripetitivo, quotidiano, di ancora qualche anno fa, ma che comunque è ancora ripetitivo. Sì, perché mangiamo tutti i giorni. Tantissime donne, insomma. Anche se si parla di mensa, di tempo pieno, cose che comunque non appartengono ancora alla realtà di Bondeno, quindi ci saranno ancora tante donne che stanno appunto facendo sì. La cena. Quindi sì, per invece inteso in senso come ne vogliamo parlare noi, l'hobby della cucina diventa anche uno strumento di liberazione e di gratificazione rispetto magari ad un lavoro intellettuale che può fare la donna o anche l'uomo, perché poi il marito può anche divertirsi a far da mangiare come... Sì, ma infatti parlava appunto questo articolo che avevo letto, non l'ho detto comunque su Panorama, della cucina che riesce a liberare, cioè la cucina intesa questa volta intesa non come momento in cui ci si trova a mangiare, ma proprio la cucina da parte di chi la fa, no? La cucina che poteva dare sfogo alla fantasia, questa famosa fantasia che è stata celebrata dal 1978 come la nuova dea, invenzione e fantasia, questo è il menu, cioè no, gli ingredienti per tutti i menu della cucina, quella che vuole essere la più moderna. Comunque non ha niente a che vedere, ripetiamolo, con la cucina di tutti i giorni che le donne sono costrette a fare. Sì, le, dico infatti. Le donne perché che lo si voglia o no, sono le donne ancora che cucinano, che hanno ancora il ruolo predominante nella cucina. Sì. Infatti credo che si possa parlare comunque, intesa nel senso in cui abbiamo parlato prima, di una risposta privata all'alienazione del lavoro. Sì, è vero, perché anche questo è una specie di rifugio, no? Di quando ho detto di fantasia, veramente uno si libera facendo tutte queste cose qua, con le carote, il sedano, ma si libera. Sì, sta andando My Way di My Way di Elvis Presley. Of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled deep and every byway, oh and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. My share of losing, and now tears subside. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way. Or what is a man? What has he got? Infatti, io volevo anche precisare meglio il ruolo femminile nella cucina. È sempre una cosa a cui io tengo in maniera particolare a precisare. Cioè, se qualche anno fa ancora per il 99% delle donne la cucina era il regno e anche la prigione d'oro della donna, adesso ormai sta sfuggendo da questo suo ruolo esclusivo. Nel momento in cui la donna ha un proprio lavoro, quindi ha una propria vita sociale, diventa quindi più emancipata, il far da mangiare diventa anche per lei un momento liberatorio, cioè non è soltanto un momento liberatorio per l'uomo, ma è un momento liberatorio anche per la donna. Quindi ha una duplice funzione la donna, come diceva Cristina prima nell'intermezzo, cioè deve saper fare quello che fa l'uomo nella società, poi deve anche saper fare molto bene da mangiare, perché ormai questo è il prototipo di donna. Sì, ma diventa il dramma di tutte le donne che lavorano, cioè va bene, sarà anche per lei un momento liberatorio che dalla quale può dar sfogo. Anzi, diventa fra l'altro non soltanto un momento liberatorio e creativo della sua fantasia, ma diventa forse ancora più stressante e più impegnativo, perché deve diventare anche una dimostrazione delle proprie capacità in quel campo. Sì, non è più il momento ripetitivo della bistecca ai ferri o roba di questo genere, diventa veramente un'arte anche quella. Questo è indubbio, cioè che la cucina sia un'arte, ma il fatto stesso che sia tenuta, oltre a dover saper fare forse il suo lavoro, a far la donna di tutti i giorni, è tenuta anche a dover cucinare, cioè con maestria e tutte queste cose qua. Quindi non lo so, il discorso che abbiamo fatto sulla cucina mi è piaciuto, cioè era una cosa da dire, anche perché è da notare senz'altro che il momento in cui ci si trova a tavola diventa anche un modo per passare il tempo libero, sì. Soprattutto se vogliamo soprattutto rifiutare la febbre del sabato sera, vero? Cioè sembra che tutti vadano a ballare. Comunque il tempo stringe, qua dobbiamo chiudiamo i battenti, facciamo sulle canne, leviamo le tende, dillo come vuoi. Il pezzo che sta andando, che avevamo sotto, era Cinderella di Polanca, sempre in tema di riflusso. Cinderella, Cinderella, pretty, pretty, pretty Cinderella, have faith now. I am sure the water above will preserve our lasting love, Cinderella. Oh, it's getting late, and this will be our last day. vi salutiamo. Avete sentito le note della sigla di chiusura. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a dire tutto quello che volevamo, come al solito. Infatti, se c'è qualcuno che vuole continuare il discorso, si può continuare in un certo salotto che poi vi diremo più avanti. Non a pranzo. No, a pranzo no, assolutamente. Va bene, allora salutiamo. Diamo appuntamento per sabato prossimo, sempre dalle 4:30 alle 5 con Radio Pompa. Ci saremo sempre noi, Tiziana e Cristina. Ciao.